Eccoci di nuovo qui, benvenuti al podcast di Rivista Militare numero 3 del 2021. L'articolo di oggi si intitola 26 lanci prima del successo, il soldato Hendrix di Pier Francesco Sampaolo. Chi l'avrebbe mai detto che una delle più celebri icone del rock blues mondiale degli anni 60 avesse un passato in uniforme? Ebbene sì, James Marshall Hendrix, detto Jimmy, esattamente 60 anni fa, dal 31 maggio del 1961 al luglio del 1962, ha prestato servizio da paracadutista presso la 101esima Airborne Division a Fort Campbell, nel Kentucky. Ma senza un passato militare, il soldato Hendrix sarebbe diventato lo stesso Jimi Hendrix? L'ingresso dell'artista nell'esercito non fu certo frutto di una vocazione o di una sua personale aspirazione, tutt'altro. Infatti, nel 1961 l'ancora non celebre cantautore e chitarrista fu arrestato a Seattle, sua città natale, perché alla guida di un'auto rubata. Dopo qualche giorno di prigione, finì davanti al tribunale che gli propose una doppia scelta: la prigione o arruolarsi nell'esercito degli USA. Con grande stupore da parte di chi lo conosceva, compreso il padre James Allen, scelse la seconda ipotesi e dopo 8 settimane di corso di addestramento a Fort Ord, in California, fu assegnato al 801esimo battaglione mantenimento e supporto della 101esima, come addetto ai rifornimenti della Repair Supply Section, sotto il comando del sergente James Spears, comandante di plotone, e del capitano Gilbert Bachman. Sin dai primi tempi, la scarsa attitudine militare del soldato Hendrix appare lampante ai suoi superiori. Svogliato e poco rispettoso delle regole, insoddisfatto delle sue mansioni, bisognoso di essere controllato durante i turni di servizio, poco affidabile e completamente assorbito dal suonare la chitarra, speditagli alla base dal padre Al. Durante i turni di riposo, infatti, Jimmy non fa altro che suonare la chitarra e a volte disturba anche i suoi commilitoni. C'è da dire, però, che durante quest'anno di servizio il soldato Hendrix fece ben 26 lanci, nell'ultimo dei quali si fratturò una caviglia. Si era appassionato al paracadutismo. «Quando stai per lanciarti», racconta, «pensi, ma che cavolo ci faccio qui? Ma chi me lo ha fatto fare?» Poi appena ti butti è un'esplosione di adrenalina. Se riesci a tenere gli occhi aperti, provi emozioni che non hanno eguali. L'infortunio fornì un ulteriore elemento per velocizzare il suo congedo, avvenuto comunque con onore nel luglio del 1962, 2 anni prima della scadenza della ferma, e che fu motivato con numerosi rapporti redatti dalla sua linea di comando, divenuti poi celebri per gli appassionati. Raccontata così, con solo questi elementi non si può certo dire che l'esperienza militare di Jimi Hendrix abbia avuto qualche risvolto positivo, magari un lieto fine, come le canzoni con una lunga coda che va ad libitum. Ma non è proprio del tutto vero, non fosse altro perché di lì a poco Jimi Hendrix diventò il grande artista che tutti conosciamo. A novembre del 1961, poco dopo il suo arrivo a Fort Campbell, il soldato Hendrix conosce un suo commilitone, più grande di lui di un anno, il soldato Cox, Billy Cox. Quel ragazzo di 21 anni, non molto alto, sarà il celebre bassista con il quale Jimmy collaborerà i primi anni della sua carriera musicale e con cui poi fonderà le band Gypsy Sun and Rainbows. Nel 1969 suoneranno al festival di Woodstock e The Band of Gypsies. Il rapporto tra i due si consolidò quasi per caso. Andò circa così. Cox, in una notte piovosa di novembre, dopo essere uscito da un cinema, trovò riparo davanti alla porta di un vicino service club, un posto dove i soldati potevano noleggiare strumenti e una sala prove gratuitamente. «Ero fuori, aspettando che smettesse di piovere», racconta Cox. «La finestra del club era alzata di un paio di centimetri. Dopodiché sento questo chitarrista. Aveva cominciato a suonare le prime note con la chitarra. Non era molto fluido. Tuttavia ho notato che c'era qualcosa di unico in lui». Cox entrò nella sala prove e si mise a improvvisare con Hendrix. I due formarono subito una band chiamata in un primo momento i Sandpipers e successivamente i King Casuals, e si esibirono in molti club nel circondario di Clarksville, nel Tennessee, prima del congedo. Il resto della sua breve vita e della sua folgorante carriera fa parte della storia. Diviene uno degli artisti più rivoluzionari e innovativi di sempre, membro d'onore della Rock and Roll Hall of Fame e fonte continua di studio e ispirazione per le generazioni presenti e future. Tornando però per un attimo al soldato Hendrix e ai rapporti dei suoi superiori che hanno preceduto il suo congedo, leggendoli bene, in special modo quello del sergente Spears, traspare tra le righe non solo il tentativo di inclusione da parte dell'esercito, ma anche il fatto di aver saputo riconoscere e capire la diversa natura di quell'uomo. Chissà, quindi, se senza l'esperienza militare il soldato Hendrix sarebbe diventato Jimi Hendrix. Forse sì, forse avrebbe conosciuto qualcun altro anziché il commilitone Billy Cox, meritevole di averlo compreso prima degli altri. Forse il James Marshall Hendrix del 1961, 19enne, peraltro afroamericano, in un paese che ancora vedeva agli albori la lotta alla segregazione. Mancavano ancora 2 anni alla marcia su Washington di Martin Luther King, sarebbe sbocciato diversamente e non sarebbe stato congedato con onore da un mondo, quello militare, a cui sicuramente lui non apparteneva, ma che in qualche modo ha saputo comprenderlo e proteggerlo prima degli altri, lasciandolo libero di prendere la sua strada. E che strada!